Ciao a tutti, io sono Carlo Burigana, sound designer, doppiatore e grandissimo appassionato di videogiochi e tecnologia. Alcuni di voi forse già mi conosceranno per aver preso parte a Dietrologia Videoludica, Videoludica.it, Ludico Forum, ma anche in qualità di creatore degli asset sonori. Sono entrato a far parte del magico mondo di quelli che un tempo si chiamavano ancora podcast nel lontano 2013, quando ho conosciuto Simone Pizzi e tutti gli amici della banda dell'allora Italian Podcast Network. Beh, da allora di acqua sotto i ponti ne è veramente passata tanta e altrettante sono le cose che abbiamo fatto assieme. Tra i progetti più interessanti che ritengo di aver svolto c'è una lontana puntata di Dietrologia Videoludica in cui si parlava di doppiaggio. Non era la solita classifica dei migliori o peggiori doppiaggi dei videogiochi, bensì era un tutorial su come viene svolto un doppiaggio dal punto di vista professionale, qualcosa che non si era mai sentito nei podcast italiani del settore. E poi, sulla falsariga del doppiaggio, c'è il mio cavallo di battaglia. Esatto, passione sound design. Una miniserie di 8 episodi trasmessa come rubrica di videoludica.it è poi diventata un feed standalone all'interno di Runtime Radio. Sì, lo ammetto, l'audio e soprattutto il doppiaggio sono entrambi argomenti che mi ispirano moltissimo e nel mio futuro vedo una trasmissione che parla proprio di quello, magari facendo intervenire colleghi, personalità del settore e doppiatori per parlare di doppiaggio e delle nostre passioni. Non mi resta che dirvi di rimanere sintonizzati su Runtime Radio per ascoltare tutti i nostri futuri progetti. Io nel frattempo passo e chiudo. Buon ascolto!